Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Mi sentivo veramente parte di questa moltitudine di ragazzi che erano scassatissimi, conciati in maniera fuori da ogni regola. Io dormivo, stremata dalla notte al freddo, fino a che un clamore fortissimo mi ha svegliata e sorpresa. Era arrivato Bob Dylan. Storie di pulmini, di concerti e di autostrade in una puntata che si intitola Pronti a partire. Ragazzi, non è per rompere i coglioni, siccome è la prima volta che siamo tutti e cinque in macchina, volevo mettere in chiaro alcune cose. Anche le regole. Anche le regole, visto che la macchina la metto io, potrò dire una cosa. Allora, prima regola, in macchina non si fuma. Secondo, non si mangia briciole, puttanate, non voglio che diventino un immondezzaio, è chiaro? Terza regola, ogni volta che si fa la benzina bisogna azzerare il contachilometri parziale perché non funziona il segnalatore, se no rimaniamo a piedi. Poche soste per pisciare, cerchiamo di ingerire solidi e liquidi tutti insieme, così poi evacuiamo all'unisono, cioè al sample. Ci sono domande? Una. Quale? Posso scendere? Troppo tardi, devo dirlo prima. Telefonare a casa è permesso? Tre volte. Grazie. Prego. Sono proprio contento di essere venuto. Beh, fumo, ne abbiamo? Poi non l'hai provato tu? No. Ma come, non l'hai portato? Vabbè, ma allora, vaffanculo, va. L'apriamo con così, con l'inizio di un viaggio, con una partenza tratta da Marrakech Express, questa puntata che si intitola Pronti a partire. Avremo diverse storie in questa puntata. Avremo la storia di un vecchio pulmino Volkswagen, di quelli che ormai tutti conoscono e riconoscono, recuperato da un fienile, rimesso a posto perché apparteneva al padre e col quale si fanno dei lunghi viaggi. Racconteremo di del concerto dell'isola di Wight e poi racconteremo invece di una coppia di scrittori che decide di fare un viaggio lungo l'autostrada Parigi-Marsiglia per viverci per un mese intero all'interno di questa autostrada, dormendo nelle piazzole di sosta proprio con un pulmino. Insomma, questo pulmino è un po' il trait d'union di tutte quante queste storie, di questa puntata che si intitola Pronti a partire, che non è una puntata qualunque. È una puntata particolare perché è l'ultima della prima stagione di questa di questo anno, di questa annata di Linee d'Ombra, che non si ferma, ovviamente ve lo sto ripetendo da tutta la settimana per evitare fraintendimenti. Non si ferma, da lunedì ricominciamo a raccontare le nostre storie, semplicemente in un orario diverso, dalle 16 alle 15, e per tutto il mese di agosto saremo in onda dalle 16 alle 17, perdonatemi, non dalle 16 alle 15, dalle 16 alle 17 per tutto il mese di agosto. Il 31 di agosto torniamo sempre alle 15, quindi per tutta l'estate voi non mollate, continuate a raccontarci le vostre storie, a scrivercele e a mandarcele a lineedombra@radio24.it. Prima di cominciare a raccontare però c'è un piccolo excursus che vorrei fare per i fedeli di questo programma, per quelli che l'hanno ascoltato durante tutto questo anno e durante anche il lockdown. Noi vi abbiamo raccontato durante proprio quel periodo così assurdo la storia di una coppia, ce l'aveva raccontata Irene, cioè la parte femminile della coppia, la moglie. Insomma, era la storia di questa coppia che aveva preso il Covid-19, avevano un figlio che era dovuto rimanere dalla zia mentre lei e il marito erano finiti in ospedale, ma l'aggravante della questa situazione era che Irene, la protagonista di questa storia, era incinta, aspettava un bambino in età adulta, era di 4 o 5 mesi, forse di più, forse 6 direi. Molti di voi si erano affezionati, ovviamente ci avevano raccontato che cosa succedeva all'interno dell'ospedale, cosa succedeva anche di banale rispetto al dovere sparire da casa e avere un figlio che era con la zia. Insomma, tutto per dirvi non solo che Irene e il marito stanno bene, che sono tornati a casa, questo già lo sapevamo, ma soprattutto che è nato il secondo figlio, quindi siamo felici di poter dare questa notizia. E a proposito, abbiamo chiesto a Irene di sapere come stava, abbiamo chiesto alla sua voce, visto che la conosciamo, la sua voce ci ha raccontato per 3 settimane loro disavventura, le abbiamo chiesto come stava lei, come stava il marito, come stavano i bambini e soprattutto come sta il nuovo o la nuova arrivata, non mi ricordo, ora lo scopriamo. Ciao, allora alla fine di giugno, incredibilmente a termine contro ogni pronostico, è nato Giorgio. È stato fortissimo perché tra l'altro pesava più di 4 kg già alla nascita, quindi c'ha un carattere forte, l'ha dimostrato in tutto questo tempo e sta bene. Chiaramente ora sono settimane un po' difficili, devo veramente ringraziare tantissimo il professor Mehacci di Careggi che mi ha seguito in tutta questa gravidanza strampalata fino al parto, è stato veramente veramente gentile. Ringrazio anche voi di aver raccontato la storia e niente, per ora tutto a posto. Ciao, grazie. Perché appunto raccontare le storie di vita poi ti fa questo effetto, che quelle persone in qualche modo, soprattutto le seguite, se le hai seguite a lungo, come accade con le nostre storie seriali, quelle che Mauro raccoglie e racconta per noi, alla fine quelle persone entrano in qualche modo nella tua vita, diventano parte della tua vita, e quindi siamo felici per Irene e per tutta la sua famiglia. Ora però cominciamo a raccontare quest'ultima puntata della prima stagione. Vi ricordo, avete tutta l'estate per mandarci le vostre storie di confine, storie che hanno una linea d'ombra nel mezzo, linea d'ombra @radio24.it. Ora prepariamoci per cominciare questo viaggio, che è veramente a che fare con un viaggio, augurandoci tutti quanti che ci siano un bel viaggio o diversi viaggi da fare quest'estate per tutti voi. Benvenuti a Linea d'Ombra. Verso la metà degli anni 90, un giorno stavo curiosando tra i banchetti di auto e moto usate del mercatino di Novegro, vicino a Milano, quando la mia attenzione è stata improvvisamente rapita da un furgoncino. Ho sentito una vampata e un grosso sentimento familiare. Si trattava di un polmino Volkswagen 1.5 di cilindrata del 1965, perfettamente restaurato in ogni sua parte, un vero massaggio oftalmico. Ma io, su quel polmino, ci ho passato l'infanzia. Mi sono venuti in mente tutti i viaggi tra Milano e il Lago d'Orta e le vacanze con nostro padre accampati nei pascoli per ripercorrere i luoghi della Grande Guerra sul Vesuvio. Presi il biglietto del meccanico che l'aveva restaurato e una settimana dopo il pulmino Volkswagen 1.5 di cilindrata del 1965 di mio padre, che per anni era rimasto abbandonato in un fienile sul lago, finalmente era su un carratrezzi diretto verso l'officina di quel meccanico restauratore che lo avrebbe fatto rinascere e il suo motore fermo da anni avrebbe avuto la sua ripartenza. La particolarità di questo pulmino è che ha un allestimento camper originale, ha il doppio vetro anteriore con sotto il mitico stemma, è bianco e rosso e ci sono affezionato da morire. È uguale a quello della famiglia Bradford e io mi chiamo Tommaso, Tommy per gli amici. Il rumore inconfondibile del suo motore boxer mi ha cullato fin da piccolo ed essendo nato a gennaio è probabile che io sia stato concepito proprio in quel pulmino nella Pasqua del 1970. Mio padre lo comprò quando la famiglia si allargò, vendette il vecchio maggiolino e prese il pulmino per accogliere i due figli in arrivo. All'interno ci sono 3 posti davanti, nessuna cintura di sicurezza ma solo una maniglia sul cruscotto per tenersi in curva. Dietro ci sono 2 file di sedili contrapposti con in mezzo un tavolino abbattibile. Abbassando la seconda fila dei sedili posteriori si forma un letto comodissimo. Non mancano armadietti, cassetti, stipi, una ghiacciaia, appunto a ghiaccio, tendine, finestrini con zanzariere, insomma tutto quello che può trasformare un viaggio in un'avventura. Per capirci, io e mio fratello in quel pulmino ci sguazzavamo. Quando arrivai dal meccanico e sentii di nuovo quel rumore inconfondibile, mi riempii di una gioia immensa. Il pulmino era ripartito. Non aveva ruggine e, a parte le gomme ovalizzate e qualche guarnizione, si manteneva in splendida forma. Ovviamente le cure del meccanico erano indispensabili e sono state risolutive. Nelle estati successive ho viaggiato molto su quel pulmino. Il periplo della Sicilia, e poi Toscana, Emilia, Umbria, Abruzzo, Marche, sono arrivato fino a Procida. Viaggiare con il pulmino è un'esperienza unica. Ovunque e sempre, le persone che incrociano il pulmino si girano, ti sorridono e ti salutano con il pollice alzato, e i più piccoli rimangono letteralmente folgorati. non ha aria condizionata, così viaggi con finestrini e deflettori aperti. Insomma, un vero spasso, a parte la puntura di qualche ape. E così il mitico pulmino era tornato a ruggire per le strade dello stivale. Il 6 aprile del 2009 ero nella mia bottega di restauro a lucidare un mobile del 700 quando arrivarono le notizie del terremoto dell'Aquila. Io rimasi molto colpito perché proprio qualche estate prima avevo fatto sosta all'Aquila e la città mi aveva colpito per la bellezza e la vita pulsante. Quell'estate riuscii ad andare a Pizzoli, un piccolo comune vicino all'Aquila, a prestare servizio come cuoco volontario per la protezione civile per l'emergenza del sisma proprio dell'aprile del 2009. Ovviamente ci andai in pulmino, che però avevo affittato per un breve periodo ad una marca di occhiali da sole per una campagna pubblicitaria e che quindi mi riconsegnarono verniciato con scritte varie in stile hippie. Non avendo il tempo di sistemarlo, partii comunque in quelle condizioni. E assicuro che una volta arrivato a Pizzoli ebbi qualche difficoltà a convincere i militari che non ero un vagabondo ma il nuovo cuoco della tendopoli. La ripartenza del motore di quel pulmino è stata quindi l'inizio di un susseguirsi di avventure sensazionali. È stata la riscoperta di un vero tesoro e di un modo incredibile di spostarsi con una lentezza che ti fa riscoprire il bello di viaggiare senza tempo. Spend my days with a woman and kind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. E ora invece andiamo da un'altra parte, andiamo in un'altra epoca che è ancora precedente a quella della storia che vi abbiamo raccontato del pulmino, ma di fatto sta in un mondo simile, perlomeno nell'immaginario comune quando si parla di vecchi pulmini Volkswagen, di figli dei fiori e di Beat Generation, più o meno si ha l'idea che vengano collocati nella stessa area. Però andiamo in Inghilterra, andiamo all'isola di Wight e ci godiamo addirittura quel concerto famosissimo che teneva insieme tantissime persone, tantissimi cantanti che all'epoca erano davvero ad un livello altissimo. Era il secondo anno del festival dell'isola di Wight, siamo nel 1969 e la storia ce la racconta Teresa. Siamo partite per Londra nel dicembre del 1968 per fare la nostra rivoluzione, lontano dalle famiglie, dopo il diploma e la partecipazione ad alcune manifestazioni studentesche. Partire per Londra per imparare l'inglese era il nostro passaporto familiare e la vita in famiglia alla pari era la nostra meta formale. La nostra meta reale era la libertà dalle regole stringenti delle nostre famiglie e la città di Genova era estremamente stretta e le amicizie molto monotone. Per 6 mesi io e la mia amica abbiamo fatto le ragazze alla pari presso famiglie residenti nello stesso quartiere. Poi abbiamo deciso che l'esperienza doveva proseguire. Abbiamo cercato un appartamento, una stanza con cucina e bagno in comune e un lavoro. Ma prima ci siamo prese un periodo di stacco, prima di iniziare questa parte dell'anno scolastico. Il 30 e 31 agosto eravamo all'isola di Wight, accompagnate da 2 amici nel pieno del secondo anno del festival, in mezzo a migliaia e migliaia di giovani e Bob Dylan, The Band, Joe Cocker, Lee Who, John Baez e numerose altre band e cantanti solisti. Tutto era organizzato come non avevamo mai visto, ampi tendoni erano abilitati per dormire, altri fungevano da cucine. C'erano ragazzi in ogni dove, abbigliati in modo stravagante, così come noi che ci mimetizzavamo molto bene tra i giovani inglesi. Dopo poche ore ho perso di vista la coppia di amici e non ci siamo più incontrati. Io e il mio amico abbiamo deciso di dormire all'aperto perché i tendoni dormitorio erano impraticabili, anche per l'aria acre di fumo di marijuana. Non avevamo niente con noi, né una coperta né un ricambio di abiti, così come ci eravamo uniti a questo popolo di ragazzi e alla musica che aggregava le speranze. Io ci sono stata 2 giorni. Cioè il giorno che sono arrivata, perché era dalla mattina che erano in attività, e quindi ci sono stata tutto il, diciamo, la giornata, perché poi si partiva da Londra con l'autobus e poi con il traghetto, insomma, ecco. Quindi quando sono arrivata e sono stata lì, e poi ho dormito, si fa per dire, in questo posto che era appunto in un campo all'aperto tipo Woodstock, questa roba così, ed è stato, e poi il giorno dopo, poi la sera me ne sono tornata, quindi ci ho dormito una notte solo all'isola di Wight, bellissima. È bellissima perché insomma non so come quanti migliaia di ragazzi della mia età, di tutto l'Europa e anche probabilmente anche qualche statunitense, io adesso non lo so perché poi parlavano tutti in inglese, quindi allora non mi ricordo. Abbiamo trovato dei sacchi di plastica e li abbiamo utilizzati come sacco a pelo per dormire all'aperto nell'umidità della campagna inglese. Avevo un prestigioso mantello di velluto rosso che avevo acquistato in un mercatino dell'usato, che avevo sopra ad una camicetta e un gonnellone, tutto qui. Ovviamente non abbiamo dormito un granché quella notte. Ricoverati presso degli arbusti, tra le file interminabili ordinate davanti ai bagni, nel chiacchiericcio proveniente da capannelli di giovani figli dei fiori britannici. Il concerto proseguiva senza interruzione dal mattino, il mio posto si trovava a metà dell'area dove il palco era installato e gli spettatori erano seduti sul terreno fitti fitti. Molti continuavano a seguire le file davanti ai servizi diversi a disposizione della massa, altri si bagnavano tra la schiuma di uno spazio dedicato. Io dormivo, stremata dalla notte al freddo, fino a che un clamore fortissimo mi svegliò e sorprese. Era arrivato Bob Dylan. L'intera platea era festante, in piedi accompagnando le canzoni di Dylan. Io ero stordita da tanta festa e dalla coralità della partecipazione di tante migliaia di giovani che trovavano nel cantautore una vicinanza e ne diventavano un tutt'uno. Non avevo partecipato mai ad un'espressione così totale e forte. Avevo 20 anni e mi sentivo parte anch'io di questa moltitudine, una sensazione di potenza e di unione che altre volte avrei provato al rientro in Italia nel corso delle manifestazioni politiche. Quella era la prima volta della mia partecipazione in un'occasione che non aveva obiettivi specifici, era testimone di un protagonismo giovanile pacifico che non aveva precedenti, rappresentato da una musica innovativa e in alcuni casi politica, che accompagnerà in seguito le marce contro la guerra in Vietnam e molti raduni pacifisti. Io c'ero ed è stata una delle belle esperienze dei giovani di ieri. Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Pronto, ciao Teresa, buongiorno e benvenuta. Ciao, buongiorno. Teresa, possiamo dire che tu hai assistito di fatto a un pezzo di storia contemporanea, tutto sommato, no? I concerti dell'isola di Wight sono stati quello, sono stati un pezzo di storia. Beh sì, direi proprio di sì, che è ricordata ancora adesso e sì, sono molto contenta di averci partecipato, dico la verità. Ed è stata, tu ci hai scritto nella mail, è stata un'esperienza generazionale, nel senso che tu davvero li hai avuto modo di conoscere, di vedere dei colleghi di generazione che in Italia non vedevi. Beh sì, ho visto migliaia di ragazzi che partecipavano con il loro entusiasmo ed erano, sì, era molto identitario, ecco, quelle occasioni di massa, e diciamo tutti si ritrovavano nelle parole dei cantanti, soprattutto di Bob Dylan, che era presente. Trovavi un po' quello che poi è stato riconosciuto come protagonismo giovanile, e lì c'era, perché lì era appunto questa migliaia, moltitudine di ragazzi e ragazze, perché la novità poi era la presenza delle ragazze, ecco, che diciamo si ritrovavano e si riconoscevano appunto nelle parole dei cantanti, che erano decisamente innovative, molte pacifiste e anche diciamo davano una grande carica. Quindi c'era più che una, come dire, più che una comunanza ideologica, c'era una comunanza sociale proprio, sì. Cioè un'idea di cultura nuova. Poi però, questa sì. È la domanda che mi viene da farti, appartenendo a un'altra generazione, anche se l'ho vista quella cosa lì, l'ho vista, me l'hanno raccontata. Poi, diciamo, quella generazione lì ha tradito un pochettino i suoi ideali e i suoi obiettivi, oppure semplicemente, come dire, poi il mondo è andato in un'altra direzione? Sì, diciamo che ci sono state poi molte strade, ecco. Una parte senza dubbio è stata catturata da un business, da una situazione, diciamo, confezionate, ecco, e questo lo dico perché questo è stato proprio il mio punto, la mia zona d'ombra, come dire, da quella, dopo quell'iniziativa, sì. Dopo quella manifestazione, la partecipazione all'Isola di Wight. Ecco, poi no, ci sono stati ancora tanti percorsi e novità, e quindi insomma, e poi c'è stato il femminismo, quindi ci sono stati poi molti tracciati, ecco, che sono usciti da, anche da queste occasioni. Senti, l'ultima cosa, poi ti saluto. Anita mi diceva che tu ora sei presidente dell'Unione Donne in Italia, sì. Di Genova, giusto? Sì. Che cos'è? Mi dici velocemente cos'è l'UDI? Sì, l'UDI è un'associazione che nasce dal 45, quindi si pone come obiettivi quelli di sostenere le donne nella loro partecipazione attiva al mondo politico, sociale e anche nella gestione delle loro diritti, delle loro opportunità e delle loro aspettative. Sì. Senti Teresa, ti ringrazio moltissimo per la storia e per la chiacchierata consapevole che abbiamo fatto insieme. Grazie davvero. Grazie. Ti auguro una buona estate. Ciao. A presto. Ciao. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra e ovviamente continuiamo a raccontare. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Ormai va abbastanza di moda, soprattutto da parte degli scrittori, magari dei cantanti o degli attori, prendersi l'estate per fare una piccola avventura personale e poi raccontarla sui social oppure farci un programma televisivo, no? Penso che sia Jovanotti che se ne va in giro in bicicletta e si fa tutta l'Argentina, oppure penso agli scrittori che si fanno le camminate lungo la via Francigena oppure insomma le varie vie che ci sono come il Cammino di Santiago in giro in Europa e poi magari fanno dei report sui propri profili social o magari appunto ci scrivono un libro. In realtà non è una cosa così nuova, è una cosa che risale già a qualche tempo fa, al punto che quella che stiamo per raccontarvi è una storia del 1982. Il protagonista si chiama Julio Cortázar e sua moglie Carol Dunlop, uno dei più grandi scrittori probabilmente di sempre, che decide di fare un'avventura estiva proprio nell'estate del 1982, e questa avventura voglio introdurvela, a proposito di questa puntata che si intitola Pronti a partire, voglio introdurvela con una lettera con la quale inizia il suo viaggio. Parigi, 9 maggio 1982. All'attenzione del direttore della società Autostrade, egregio direttore, qualche tempo fa la società che lei rappresenta mi chiese l'autorizzazione di pubblicare su una delle sue riviste alcuni brani del mio racconto L'Autostrada del Sud. Naturalmente acconsentì con viva soddisfazione. Adesso mi rivolgo a lei per sollecitarle a mia volta un'autorizzazione di natura molto diversa. Assieme a mia moglie Carol abbiamo studiato la possibilità di una spedizione abbastanza folle e piuttosto surreale, che consisterebbe nel percorrere l'autostrada tra Parigi e Marsiglia a bordo del nostro Volkswagen Combi equipaggiato di tutto il necessario, fermandoci nelle 65 aree di sosta dell'autostrada al ritmo di 2 al giorno, vale a dire impiegando poco più di un mese per compiere il tratto Parigi-Marsiglia senza mai uscire dall'autostrada. Parallelamente al viaggio abbiamo intenzione di scrivere un libro che racconti le varie esperienze che una così strana spedizione senz'altro ci offrirà, ed è ovvio che l'autostrada ne sarà la protagonista principale. L'unico problema è che, qua a quanto ne sappiamo, un veicolo non può rimanere più di 2 giorni in autostrada, ed ecco perché ci rivolgiamo a lei per chiederle l'autorizzazione che all'occorrenza ci eviterebbe di incontrare difficoltà ai vari caselli. Ringraziandola anticipatamente per il suo interesse verso il progetto, la prego di gradire, egregio direttore, i miei più sinceri sentimenti di stima insieme a quelli di mia moglie. La prego di gradire, egregio direttore, i miei più sinceri sentimenti di stima insieme a quelli di mia moglie, Julio Cortázar. Ecco, questa è la lettera con cui inizia il libro che si intitola Gli autonauti della cosmostrada, ovvero un viaggio atemporale Parigi-Marsiglia, scritto da Julio Cortázar, forse il più grande scrittore argentino del Novecento, e di sua moglie Carol Dunlop. In una puntata che si intitola Pronti a partire, la seconda storia di oggi è proprio la loro. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Il mezzo con cui io e Carol viaggeremo l'ho ribattezzato, secondo le mie ostinate predilezioni wagneriane, il Drago. È una specie di casa ambulante o di chiocciola, un Volkswagen rosso in cui c'è un serbatoio dell'acqua, un sedile che si trasforma in letto e su cui ho caricato la radio, la macchina per scrivere, libri, vino rosso, zuppe in scatola e bicchieri di carta, un costume da bagno per ogni evenienza, una lampada a gas e un fornello grazie al quale una scatoletta si trasforma in pranzo o in cena mentre si ascolta Vivaldi o si scrivono queste pagine. Fino all'estate del 1978, periodo in cui è nata questa idea, appartenevamo a quella razza di comuni mortali che prendono l'autostrada per quello che sembra, una costruzione moderna, molto elaborata e che permette ai viaggiatori rinchiusi nelle loro capsule a quattro ruote di percorrere un tragitto facilmente verificabile su una cartina e in buona parte dei casi previsto fin dall'inizio, in un tempo minimo e con la massima sicurezza. Noi due, comunque, è opportuno precisare che apparteniamo, sia l'uno sia l'altra, a una razza intermedia di autostradisti. Almeno siamo di quelli che se la prendono più comoda, che cercano l'angolino adatto per mangiare e cedono al desiderio di fare una pennichella se il tempo lo permette. Sia all'uno che all'altra capitava inoltre di abbandonare più di una volta l'autostrada tra il punto di partenza e quello di arrivo. La qualcosa dimostra che in noi esisteva già una certa resistenza all'insolente pretesa dell'autostrada di essere l'unica a esistere tra il punto A e il punto B. All'inizio stabilimmo le seguenti regole del gioco: un'area di sosta al giorno, l'obbligo di non uscire dall'autostrada tra Parigi e Marsiglia e un libro da scrivere. Ma allora, nella piena ingenuità di comuni autostradesi che non possedevano nemmeno la carta Michelin, credevamo che tra Parigi e Marsiglia ci fossero una trentina di aree di sosta. Ma ci sbagliavamo. Le aree erano quasi il doppio. Non avendo 70 giorni a disposizione, dopo lunghe deliberazioni, decidemmo di modificare le regole del gioco e di scandire il ritmo della crociera a due aree al giorno. In ciascuna avremmo passato un certo lasso di tempo, con l'obbligo evidente di dormire nel secondo, qualunque fosse. Dalle aree di sosta il mondo non ha dimensioni. Molte volte non siamo riusciti a reprimere un breve «oh» di delusione, scoprendo il terreno sul quale avremmo dovuto vivere per alcune ore o per tutta la notte. Una striscia d'asfalto in un certo senso identica a quella che continua in linea retta verso Lione e Marsiglia, con la differenza che da questa parte i veicoli sono immobili e dall'altra, da cui non ci separa quasi nulla, corrono a tutta velocità. Con la solita rapidità tiriamo su il mantice di tela che forma la capote, sistemiamo l'esdraio sui portabagagli, controlliamo la stabilità del frigorifero e in segno di spregio per la bruttezza di quell'area di sosta apriamo il letto e stendiamo le lenzuola, pronti a una vendetta piuttosto intima. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa la pa pa pa la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa pa la pa pa pa la. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Non vediamo più le auto, nemmeno il supertreno TGV che passa come un aereo a reazione a pochissimi metri da noi. Adesso c'è un giaciglio la cui luce sfumata si attenua a mano che il cielo si copre e iniziano a brontolare i tuoni. Il cielo si scurisce sempre più, la pioggia picchetta sul tetto, ma noi ormai siamo lontani. E la fiamma pilota del frigo, se riuscissimo a vederla, potrebbe benissimo essere il fuoco di un camino in un grande castello medievale scozzese in cui avessimo cercato rifugio per l'approssimarsi del temporale. Come tante altre volte, l'apparenza inganna. Quella che c'era apparsa una sosta concepita più che altro per vesciche impazienti e nel peggiore dei casi per fare in modo che i guidatori potessero cambiare una gomma con meno rischi rispetto all'autostrada, ci rivela i propri segreti dopo la siesta, sotto un sole caldo e sincero. Julio scopre un piccolo avvallamento, un angolino verde in cui possiamo sistemare l'asdraio, leggere e bere il nostro aperitivo. o la follia si sta aggravando o stiamo davvero entrando a poco in questo spazio senza limiti, grazie al quale, al di là della prima impressione, si profila una seconda realtà che ci permette di dire esausti, sfiniti e felici, mentre Julio ci serve un borgogna bianco gelato alle 5 del pomeriggio, guardandoci con un sorriso che sprigiona serenità, come si sta bene qui. Quando poi di ritorno a Parigi gli amici ci raggiunsero per divertirsi con la versione orale del viaggio, una diversa visione del viaggio si fece strada in molti commenti. Quasi subito ci fu chi volle sapere se le nostre intenzioni erano state meramente ludiche o se dietro si nascondeva una ricerca di altra natura. L'immersione in un paesaggio non solo geografico, lo scontro fra una vita ordinaria e quella provocante no man's land situata nel pieno vortice della civiltà. Qualche amico volle sapere se avessimo messo in pratica una forma contemporanea di provocazione zen, se questo andare controcorrente, a volte esasperante, di un viaggio opposto a tutti i moduli proposti e favoriti dall'autostrada avesse come vero oggetto un incontro interiore, una liberazione dalle tensioni nell'ordine personale e addirittura storico, se Marsiglia non fosse stato il nostro Graal. Tutto questo ci sorprese un po', ma soprattutto ci divertì, perché non avevamo mai concepito né avevamo realizzato la spedizione con simili intenzioni. Era un gioco, e lo fu per 33 meravigliosi giorni. Di fronte a domande inquietanti ci siamo detti molte volte che se avessimo tenuto presente quelle possibilità, la spedizione sarebbe stata un'altra, forse migliore o peggiore, ma non ci sarebbe stato questo crescendo di felicità e di amore da cui siamo usciti così colmi che niente, dopo, nemmeno in viaggio incredibile e in ore di perfetta armonia, ha potuto superare questo mese fuori dal tempo, questo mese interiore in cui per la prima e ultima volta abbiamo saputo cosa fosse la felicità assoluta. E magari, proprio per quella ragione, abbiamo capito, senza parole, che forse avevamo fatto questo viaggio obbedendo senza saperlo a una ricerca interiore che avrebbe assunto diversi nomi sulle labbra dei nostri amici. Abbiamo capito che a modo nostro avevamo fatto un'azione zen, avevamo cercato il Graal e che tutto era stato fatto proprio perché non l'avevamo pensato, né cercato né proposto, perché l'amore e l'allegria ci riempivano troppo per lasciare spazio a un'ansia di ricerca. Avevamo trovato noi stessi e questo era il nostro Graal sulla Terra. It hurts me dear to see you got no faith in yourself. It bothers me now to watch you. You got no faith in your own self. You listen more to your friends than to your own heart inside. Well, you listen to them, oh, but you hide. You don't got nothing to be afraid of. You're not as bad as you think. And you're always putting yourself down. Put yourself down. But I'm just gonna tell you that I like you. Il brano, la storia che vi abbiamo appena raccontato arriva da un libro che è pubblicato in Italia da Feltrinelli che si chiama Gli Autonauti della Cosmostrada, ovvero un viaggio atemporale Parigi-Marsiglia. È scritto appunto da Julio Cortázar e da Carol Dunlop, che erano marito e moglie, era il 1982 quando lo fecero. Abbiamo pensato di chiudere questa prima stagione di Linee d'Ombra, che ovviamente non chiude, non si ferma, lo sapete, lo dico da una settimana, ricomincia esattamente lunedì ma alle 16 con il meglio di per tutto il mese di agosto. E poi ritorniamo il 31 di agosto puntualissimi con le nostre nuove storie originali. Vi dicevo, abbiamo pensato però di chiudere questa prima stagione con questa storia, perché pensiamo, insomma, pensando soprattutto a quelli che viaggiano tanto in Liguria e si trovano spesso dalle parti di Genova in questo periodo, è molto complesso e magari, chi lo sa, la vacanza può essere trasformata proprio nello stare in autostrada, come hanno fatto Cortázar e sua moglie Dunlop. È una storia appunto che è stata raccontata da loro stessi. Sono 33 giorni il viaggio che hanno fatto senza mai uscire dall'autostrada, e per capire, insomma, Parigi-Marsiglia è un viaggio che si poteva fare all'epoca con un pulmino come quello, forse in 10, 12, 13 ore, insomma, andando più o meno dritti e fermandosi per scranchirsi le gambe e fare carburante. Ed è curioso come appunto lei stessa, Carol Dunlop, in chiusura di questo racconto dica tutti pensavano che l'avessimo fatto chissà per cosa, e invece alla fine non l'abbiamo fatto, semplicemente perché volevamo essere felici. Era il 1982, purtroppo Carol Dunlop morirà alla fine di quello stesso anno, nel 1982, mentre Julio Cortázar, 2 anni più tardi, quando fece questo viaggio, Cortázar aveva 68 anni. Ora ascoltiamo le strade in diretta a proposito di viaggi e di percorsi autostradali e poi torniamo con la nostra storia seriale, la storia di Antonina Zotti, e finalmente sentiamo Antonina direttamente al telefono dalla sua viva voce. Linee d'ombra. E siamo arrivati, insomma, è da qualche giorno che lo dico, siamo arrivati, ahimè, alla fine di questa storia che grazie a Mauro Pescio vi abbiamo raccontato per 5 settimane. È la storia di Antonina Zotti, è stata una storia che abbiamo raccontato con estremo piacere e che abbiamo raccontato anche grazie all'aiuto proprio di Antonina, che è stata molto disponibile con Mauro. Prima di introdurre Antonina, io voglio però ricordare a chiunque avesse voglia di sapere di più di questa storia di cui noi abbiamo potuto raccontare, ahimè, solo una parte. Voi trovate il libro che racconta tutta questa storia, che ha scritto proprio Antonina, che si chiama Ad alta voce, Il riscatto della memoria in terra di mafia. È stato pubblicato da Terre di Mezzo nel 2016, dopo aver ovviamente vinto il premio dell'archivio dei diari, che è il premio Severio Tutino. Insomma, se volete sapere qualcosa di più, leggete per intero il libro di Antonina Zotti. Se invece volete sentire qualcosa dal vivo, al momento con lei, rimanete qua, perché Antonina è al telefono con noi. Pronto? Ciao Antonina, buongiorno. Ciao Matteo. Antonina, innanzitutto grazie per come ci hai raccontato la tua storia, per come ce l'hai di fatto consegnata. Senti Antonina, mi spieghi perché il fatto che un membro della famiglia, e nel tuo caso tuo padre o il marito di tua mamma, fosse stato ucciso dalla mafia era un'onta in quegli anni in Sicilia, era quasi una vergogna. Per quale motivo? Ma intanto dobbiamo calarci in quella che era la cultura del sistema mafioso imperante nel feudo, diciamo. Ed era qualsiasi uomo che si permetteva di ostacolare la mafia, di contrapporsi alla mafia, era considerato colpevole. Perché? Perché la mafia era da tutti riconosciuto come il potere politico, economico, sociale nel territorio. Quindi chiunque avesse l'ardire di andare contro la mafia era un uomo che era poco responsabile, non irresponsabile dalla parte del torto alla mafia, ma chi osava contraddirla, chi osava contrapporsi alla mafia. E mio padre aveva osato tanto, addirittura, diciamo, con un atteggiamento quasi come il suo carattere, irridente, perché lui era uno spirito libero, irridente, e non gli permetteva di chinare la testa, questo carattere che lui aveva. Senti, tu ci racconti molto bene sia nel tuo libro e sia lo hai fatto a Mauro in viva voce quegli anni di miseria estrema, in cui addirittura la vostra vita dipende esclusivamente dalla vostra scrofa. C'è quasi una forma di affezione per quella bambina che eri, è così? Certo, devo dire grazie al libro. Io, andando avanti e indietro nella mia storia, perché era inevitabile appunto che tornassi indietro, ho incontrato quella bambina e ho avuto modo di rispondere alle sue domande che mano a mano sono maturate, diciamo. Ho avuto la possibilità anche di coccolarla, di abbracciarla, di stringerla al mio petto e dirle: come hai fatto a superare? Chi ti ha dato tutta questa forza? E io ho veramente grande ammirazione per quella bambina, perché era priva di tutto, era solo l'affetto della mamma, l'amore della mamma e del fratellino che non le mancava, che è stato veramente il nostro punto di forza, ma tutto il resto non c'era. Antonina, però quella bambina è stata così forte e così brava da diventare la donna che tu sei oggi, quindi sì, insomma, ce l'ha fatta. Sì. La bambina ce l'ha fatta perché è stata sostenuta da una volontà, da una tenacia incredibile, che tuttora e poi sono state le caratteristiche della mia vita. Io sono stata una ragazza e poi una donna e poi un'insegnante, moglie, madre, esigentissima ed intransigente per quanto riguarda il dovere. Tutto ciò che competeva a me io lo devo fare, lo faccio tuttora al meglio delle mie possibilità sempre. Senti Antonina, io vorrei fare un salto di un po' di anni e arrivare al giugno del 1992, quando tu sali su quel palco durante quella manifestazione per Giovanni Falcone e per la prima volta, lo gridi a Palermo, lo gridi al mondo. Mio padre è stata una delle prime vittime di mafia. Quello, diciamo, nell'arco narrativo della tua vita, quello è un momento di svolta, sì, certo. No? Cioè tu prendi la parola. Da lì in avanti che cosa succede? Ma banalmente, quando tu torni a casa, come ti senti? Cosa provi e poi cosa succede dopo? Io mi sento vuota e nello stesso tempo piena. Mi sento un po' smarrita e nello stesso tempo felice e gratificata, perché finalmente avevo preso parola e finalmente capivo che iniziavo a fare qualcosa per mio padre, che finalmente incominciavo a saldare quel debito di riconoscenza che mi aveva accompagnato tutta la vita. Perché parlare di lui anche oggi, Matteo, parlare di lui quando incontro i ragazzi delle scuole, le associazioni, so di fare qualcosa di molto utile a lui, so di restituirgli in qualche maniera la vita attraverso la memoria, certo, ma è certo, lo tengo in vita in qualche maniera, ma è qualcosa che tiene in vita anche me e che mi dà il coraggio di guardarlo in faccia, perché io sono arrivata al punto che non riuscivo a guardare papà neanche nella fotografia, perché non mi sentivo a posto con la coscienza per non aver fatto quello che sentivo di dover fare. E quindi quel giorno, dopo quelle poche parole che ho pronunciato, io ho cominciato a sentire questo peso sciogliersi. Con le mie lacrime si scioglieva anche questo, e cominciavo a far pace con me stessa, a far pace con mio padre, perché a lui tante volte avevo chiesto: papà, perché l'hai fatto? Quel discorso, come dire, ha fatto quadrare tutto il cerchio, ti ha messo in pace con lui, ma ti ha messo anche in pace col mondo e ha restituito al mondo la figura di Nicola Ozzotti, che appunto è oggi finalmente, grazie anche al tuo libro, una figura di riferimento quando si parla di vittime della mafia e di persone che si sono alzate in piedi contro la mafia. Antonina, io purtroppo ti devo salutare, però grazie mille davvero e spero di avere occasione di incontrarti prima o poi. Grazie ancora Antonina, grazie, in bocca al lupo per tutto. Un affettuoso abbraccio. A presto. Ciao, grazie. Grazie mille. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me get what I want this time. E la chiudiamo qui, la chiudiamo così questa prima stagione di Linee d'Ombra con questa 235esima puntata. È stato un anno bellissimo per noi, insomma, da un punto di vista radiofonico. È stato un anno complicatissimo per tutto il nostro paese. Noi abbiamo cercato di raccontarvi anche quello che succedeva, nonostante noi non facciamo informazione, non facciamo attualità strettissima, ma vi raccontiamo storie, e quindi abbiamo cercato in qualche modo di mappare quello che succedeva anche in questo fine inverno, primavera assurdi che nessuno si immaginava avremmo mai potuto vivere. L'abbiamo fatto con i diari della quarantena, l'abbiamo fatto con le storie della ripartenza e l'abbiamo fatto appunto con la storia seriale che vi abbiamo raccontato, quella di Irene e della sua famiglia. Io quindi voglio ringraziare innanzitutto Radio 24 che ha deciso di accogliere di nuovo il racconto di queste storie. Voglio ringraziare quelli che fanno questo programma, in particolar modo Anita Panizza, senza la quale questa redazione sarebbe disunita, e senza la sua testa pensata noi non saremmo in grado di mettere in fila tutte le cose. Ringrazio Mauro Pescio che scrive con me questo programma, scrive in particolar modo, oltre alle puntate, anche totalmente tutte le storie seriali, sono merito suo la ricerca, la raccolta e la scrittura. Ringrazio Luca Micheli che dà una quadratura musicale a tutto quanto, sceglie i brani musicali, sceglie le canzoni, sceglie le basi da mettere sotto al racconto. E grazie al nostro meraviglioso Paulino Corleoni che prima in studio, poi da casa durante il lockdown montava tutti i pezzi, teneva insieme tutte le storie e dava una forma splendida all'ascolto di questo programma. Grazie a loro, grazie a voi per averci ascoltato per tutta questa stagione. Non mollateci, noi da lunedì siamo in onda alle 16, dalle 16 alle 17 con il meglio di questa stagione. Torniamo il 31 di agosto di nuovo alle 15, quindi il nostro orario rimane questo. Solo per questa pausa estiva facciamo uno slittamento di un'ora, dalle 15 passiamo alle 16, ma poi torniamo sempre alle 15. Io vi chiedo chiedo però di non mollare, anzi di usare quest'estate per scegliere una vostra storia, un pezzo della vostra vita che abbia una linea di confine nel mezzo, che avete valicato o magari no, e di raccontarcela, una o due pagine, lineedombra@radio24.it. Noi ci facciamo una puntata, noi ci facciamo una stagione. L'appuntamento quindi è per lunedì alle 16 con il meglio di voi. Passate un ottimo weekend, passate un'ottima estate, godetevela il più possibile, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.